Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Settembre 2002, New York, Flushing Meadows. Oggi si gioca la finale degli US Open. È il quarto torneo del grande slam dell'anno, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Oggi se lo contendono due giocatori di casa, due americani. Non sono due tennisti qualunque. Uno di fronte all'altro si trovano due uomini che hanno fatto la storia di questo sport ed esaltato milioni di tifosi e appassionati. Pensate che questa è la 34esima volta che si incontrano. Sarà anche l'ultima. Scopriamo chi sono, iniziando dal grande favorito della finale, soprannominato The Kid, e il grande Andre Agassi. Lo sport nella società contemporanea è anche e soprattutto spettacolo. Le discipline più diffuse sono di solito accompagnate da un circo mediatico che fabbrica soldi, produce introiti, vive di sponsor e di grandi business. Per questo motivo lo sport non ha bisogno solo di atleti, ha bisogno soprattutto di personaggi. Uomini e donne che abbiano carisma, personalità e qualche tratto in grado di accendere la fantasia dei tifosi e degli appassionati. Andre Agassi è stato tra i più forti tennisti degli ultimi 30 anni. Non il più forte, certo, ma indubbiamente, dopo l'inarrivabile John McEnroe, il più personaggio. Image is everything. L'immagine è tutto. Questa frase appartiene a un celebre spot canon di cui il tennista più pop della storia dello sport era testimonial. Una frase che l'ha segnato per anni, che l'ha marchiato, da cui si è riuscito a staccare solo a fatica e solo recentemente. Andre Agassi nasce a Las Vegas il 29 aprile 1970. Il padre è iraniano, si chiama Emmanuel Agassian, e con questo nome partecipa alle Olimpiadi del 1948 e del 1952 come pugile. Trasferitosi negli States e presa la cittadinanza americana, cambia il suo cognome in Agassi. Si sposa con Elizabeth Dudley, dalla quale ha quattro figli. Emmanuel, che si fa chiamare Mike, benché sia stato pugile, ha un'altra grande passione sportiva: il tennis. Per questo motivo cerca di trasformare tutti e quattro i suoi pargoli in tennisti professionisti. Ci riesce solo con uno, il più piccolo, Andre. Penso che mio padre mi abbia indirizzato in maniera così rigida verso il tennis, perché era la sua grande passione da tutta la vita, ma non era mai riuscito a concretizzarla. Così il modo più facile per vivere il suo sogno americano passava attraverso i suoi figli, e attraverso di me in particolare. Andre è sottoposto dal padre, fin da piccolissimo, a un allenamento incredibilmente duro, non solo fisico e tecnico, ma anche mentale. Un training che lo indirizza verso un'evidente attitudine all'agonismo. Mike Agassi è un allenatore di tennis improvvisato, ma a suo modo efficace. Guarda decine di videocassette dei campioni, Borg, Lendl, McEnroe. Mette il figlio in campo e gli fa colpire 3.000 palline al giorno e non accetta lamentele. Una rigidità verso cui il futuro campione inizia a dimostrare insofferenze. Mi continuava a ripetere che avrei dovuto farlo per la famiglia. Un peso notevole per un ragazzino che ha meno di 10 anni, ma imparai a sopportarlo e a stringere i denti. Mi ha inoltre trasmesso questo concetto discutibile: la scuola, l'educazione scolastica non era necessaria o indispensabile, era più importante colpire migliaia di palline al giorno. Il padre lavora in un gigantesco resort di Las Vegas e grazie alla sua professione riesce ad allacciare conoscenze rilevanti anche nel mondo del tennis. Queste gli servono a trasformare il piccolo e talentuoso Andre in fenomeno da baraccone, costretto a palleggiare con Jimmy Connors, John McEnroe e Pat Cash quando questi passano da Las Vegas per qualche giorno di vacanza. C'è un aneddoto straordinario che testimonia la voglia di vendetta che Agassi cova in questi primi anni di vita e che saprà trasformare in energia agonistica quando avrà raggiunto la notorietà. All'età di 10 anni, Andre palleggia con Connors, il quale con la sua solita boria sentenzia: se mai questo bimbo crescerà e sarà in grado di battermi, allora sarò davvero pronto per il ritiro. Quel bimbo, nel 1989, quando avrà 19 anni, lo incontrerà nei quarti di finale degli US Open. E pur nettamente sfavorito, farà impazzire Jimbo con il suo tennis supersonico, vincendo in 5 set dopo aver perso i primi due. Ma farà di più. Sfuggito il secondo set, Andre Agassi si avvicina all'allenatore di Connors e gli dice: «Ho perso i primi due apposta perché c'è più gusto a vincere al quinto». Connors viene annientato anche sul piano della sfrontatezza. Torniamo a metà degli anni Ottanta, a seguire la formazione di Andre Agassi. Nel 1984 ha solo 14 anni e lascia la natia a Las Vegas per recarsi in Florida, presso la celebre accademia di Nick Bolettieri, il centro di allenamento in cui sono cresciuti anche Boris Becker, Jennifer Capriati e Monica Seles. Bolettieri è considerato una sorta di guru del tennis moderno. È un ex militare che è riuscito a fare fortuna comprando un enorme appezzamento di terreno e trasformandolo in un gigantesco centro di allenamento che gestisce con disciplina ferrea e regole da caserma. Qui la rabbia e la ribellione di Andre esplodono definitivamente. Così Bolettieri si esprime a proposito di Agassi. Si vestiva in modo diverso ed eccentrico. Aveva anche un taglio di capelli eccentrico. Capiva tutto in anticipo. Spesso riusciva ad anticipare le domande che volevi fargli, dandoti subito la risposta. Non è stato un rapporto semplice il nostro. In questi anni si formano anche il carattere e la personalità di Andre Agassi. Prima l'autoritarismo severo e inflessibile del padre, le sue idee retrograde e conservatrici. Ora la dura disciplina dell'Accademia di Bolettieri formano un ribelle. Andre manifesta la propria ribellione soprattutto attraverso il look. Jeans strappati, capelli lunghi, ossigenati, talvolta smalto rosa sulle unghie. Il padre di Andre Agassi va su tutte le furie, spesso anche il suo coach, Bolettieri. Con il genitore è la rottura totale. Con Bolettieri un rapporto padre-figlio problematico e fatto di continue fratture e riavvicinamenti. Nick è stata una figura molto importante per me. Ma il nostro non è stato un rapporto facile. Il suo centro di allenamento aveva regole severissime. Il rapporto con mio padre mi aveva reso insofferente a certe regole e a certe restrizioni. L'esplosione nel tennis che conta avviene negli ultimi anni del decennio degli 80, in particolare tra il 1987 e il 1989, quando Andre raggiunge per la prima volta la top 10 del ranking mondiale e supera rapidamente il milione di dollari di premi guadagnati. Un'ascesa rapidissima. Cosa ancora più importante, Andre, nell'impettito e ancora un po' ingessato mondo del tennis professionistico, diventa un simbolo, un'icona per i giovani. I colori sgargianti che caratterizzano i suoi completi, l'acconciatura che ricorda più un membro degli Europe che un aspirante vincitore di Wimbledon, accostati però a un animo gentile, corretto, che fa sì che abbia sempre comportamenti estremamente composti sul campo, lo rendono un modello per milioni di giovani fan in tutto il mondo e un appetitoso testimonial per gli sponsor. Non era proprio facile sopportare quella pressione, stare nel personaggio. Era accaduto così rapidamente che mi ero ritrovato prigioniero di un'immagine che si stava cristallizzando nel pensiero collettivo del grande pubblico. Il decennio degli anni 90 partorirà in ambito sportivo numerosi fenomeni mediatici. Alcuni abbinano al magnetismo mediatico uno spessore agonistico e sportivo di grande rilevanza. Altri invece sono delle bolle di sapone destinate a scoppiare presto. Alla prima categoria appartiene uno dei personaggi più importanti del decennio sportivo, l'asso dell'NBA Michael Jordan. Un mix inarrivabile di carisma e di talento. Un atleta fenomenale che si trasformerà in un brand potentissimo. Nella seconda categoria, per fare un esempio, rimanendo nell'ambito del basket, rientra il mediocre Dennis Rodman, cestista dai mille tatuaggi e piercing, anticonformista e ribelle dentro e fuori dal campo, inconsistente al punto da svanire come una moda nel giro di pochi anni. Andre Agassi, no, non è una moda passeggera. Dal punto di vista tecnico, infatti, il campione di Las Vegas riesce a introdurre una serie di innovazioni nel gioco che sono alla base del cosiddetto tennis moderno. Una su tutte, l'anticipo. Agassi si inventa un nuovo modo di fare l'attaccante da fondocampo, colpisce la pallina di controbalzo grazie a riflessi straordinari e sfrutta in questo modo l'energia cinetica della pallina quando questa, dopo il rimbalzo, è ancora in fase ascendente. Il suo è una sorta di tennis flipper velocissimo, condotto con un ritmo infernale e asfissiante. Una testimonianza su questo tennis dal ritmo spaventoso arriva da un campione come John McEnroe, che nella fase conclusiva della sua carriera, quando è ancora tra i top players, ha modo di incontrare più volte Andre Agassi. È stato con Jimmy Connors il più grande giocatore di tutti i tempi in un colpo. La risposta. La maggior parte dei tennisti che si considerano attaccanti usa il servizio per prendere il comando del gioco. Jimmy e Andre, invece, usavano il servizio del loro avversario e con una risposta formidabile ribaltavano il gioco. Andre, in questo senso, era ancora più incredibile, anche perché aiutato da racchette più all'avanguardia. Comunque, aveva un senso dell'anticipo incredibile, unico al mondo. Tra il 1989 e il 1991 Agassi rimane stabilmente tra i top 10, ma ancora non riesce ad aggiudicarsi uno dei tornei del Grande Slam, il massimo traguardo per un giocatore di tennis. Ci va vicino due volte, al Roland Garros a Parigi, quando viene sconfitto in finale da Anders Gomez, e a New York, nella sua prima finale degli US Open. È il 1990. Il tennis è dominato per lo più da giocatori americani, molti dei quali giovani e promettenti. A sconfiggerlo, nel 1990, c'è proprio uno di questi talenti. È lo stesso che si ritroverà davanti 13 anni dopo, nella finale da cui siamo partiti oggi. Uno spilungone lungo e ciondolante dalla mano fatata, che rispetto ad Agassi è tutto l'opposto. Il suo nome è Pete Sampras. Pete Sampras. Impossibile proseguire a raccontare la carriera di Andre Agassi senza metterla in parallelo con quella di Pete Sampras, senza intrecciare le vite dei due personaggi, senza raccontare i loro destini incrociati. I due non sono semplicemente rivali sportivi, sono perfettamente opposti in tutto, come stili di gioco, di vita, come personaggi. Addirittura opposti fisicamente, e come tali sono assolutamente complementari, necessari l'uno all'altro. Agassi non sarebbe diventato ciò che è diventato se non avesse incrociato la racchetta 34 volte con Pete Sampras. E lo stesso si può dire per Pete, soprannominato The King of Swing. Se di Andre Agassi abbiamo descritto un'infanzia complessa e problematica, lo stesso non si può dire per Sampras. Pete Sampras nasce a Washington il 12 agosto 1971. Ha un anno meno di Agassi, ma come il rivale ha tre fratelli. La differenza sostanziale sta nel fatto che Sampras non inizia a giocare per imposizione paterna, ma per passione. In particolare a spingerlo c'è l'amore per un campione, il suo idolo, Rod Laver, australiano che da molti è considerato il più grande di tutti i tempi. Rod Laver era il mio idolo quando ero piccolo. Trovavo fantastico il suo modo di giocare, un serve and volley che si adattava a tutte le superfici. All'inizio però io non giocavo in maniera simile a lui, anzi, ho cambiato atteggiamento con il tempo. Con alle spalle una famiglia che gli fornisce tutto il supporto possibile, senza mai esagerare o sconfinare nel fanatismo, Pete Sampras viene allevato tennisticamente da Peter Fisher, un allenatore americano che ha fatto crescere numerosi talenti. Questi prima lo trasforma in un giocatore di volo, per valorizzare la sua sensibilità e il tocco di palla, e poi gli imposta il rovescio a una mano. In poche parole, costruisce la nemesi di Agassi. Mentre il kid di Las Vegas è una macchina da guerra da fondocampo, Sampras colpisce e scende a rete. Agassi gioca sulla forza e sull'anticipo, Sampras sul tocco, sulla classe e sull'inventiva. Agassi colpisce il rovescio a due mani, Sampras a una. Non è tutto qui. Sampras è calmo, posato, composto. Sembra il tipico bravo ragazzo americano. Capello corto, faccia pulita da studente di college un po' imbranato, insomma, lontanissimo dall'atleta punk incarnato da Agassi. Siamo stati due atleti molto diversi, ma avevamo gli stessi obiettivi, gli stessi sogni, fin da ragazzi. Abbiamo imparato a conoscerci e ad apprezzarci. avevamo molto rispetto del gioco dell'altro. Per me è stato importantissimo avere fin da subito un rivale come Henry, perché mi ha permesso di migliorarmi e di conservare sempre la giusta tensione. Pete comunque diventa professionista nel 1988. Nel 1990 vince il suo primo torneo importante a Filadelfia contro André Gomez. Riesce a entrare nei primi 20 e nel 1990 arriva in finale agli US Open. Qui il primo incontro con Henry Agassi nella finale dello slam più caro agli americani. Henry parte favorito. Sì, in quel nostro primo incontro partivo con il pronostico a favore. Pur avendo solo un anno di differenza con Pete, mi sentivo decisamente più esperto. Il suo modo di giocare però mi sorprese. Sampras si impone in maniera secca, 3-7-0. È il primo di 34 incontri che puntellano una rivalità storica e segneranno la storia del tennis. Una rivalità che seguiremo tra poco. A destini incrociati. I know his blood, but you can't still turn him away. You don't know him anything. Do you go to the dungeon to find out how to make peace with your days in the dungeon? Writing a letter to ya didn't make me feel any more peaceful than how I felt when we weren't speaking. Because I didn't come to what I did. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando una delle più grandi rivalità della storia del tennis e dello sport americano. Due atleti opposti, diversi, complementari, che negli anni 90 dominano la scena tennistica mondiale incontrandosi ben 34 volte. Sono Pete Sampras e Henry Agassi. Abbiamo parlato del loro primo incontro importante, datato 1990, e dell'ultimo in assoluto, datato 2002. In mezzo c'è un decennio di trionfi, di gioie, di dolori. Ripercorriamolo insieme. È l'ultimo punto del match tra Sampras e Agassi del Masters del 1990. Il Masters, il nome volgare delle ATP Finals, è il torneo che conclude ogni stagione del tennis mondiale. I primi 8 giocatori del ranking si affrontano, divisi in 2 gironi da 4. Poi, semifinali e finale, a caccia di un montepremi stratosferico. Agassi, nel girone della ATP Finals, si vendica ed elimina Pete Sampras. I due si incontrano e si incrociano più volte nei vari tornei del circuito. Tuttavia, a Henry Agassi manca ancora la realizzazione del sogno più grande, un torneo dello slam. Chiaramente, per noi professionisti, vincere in un major è una sorta di coronamento della carriera. Se non riesci ad aggiudicartene almeno uno, puoi essere anche un top ten, ma ti sentirai sempre un incompleto. Paradossalmente il primo torneo del grande slam che si aggiudica è quello meno adatto alle sue caratteristiche di attaccante da fondo e quello anche meno compatibile con il suo lato punk e ribelle. Stiamo parlando di Wimbledon. Il torneo di Wimbledon è il più antico del circuito. Nasce infatti nel 1877. Dal 1922 si gioca sui leggendari campi dell'All England Club, nei pressi di Church Road. Questa tradizione più che secolare viene ribadita attraverso una rigida adesione ad alcune norme di etichetta che vengono fatte rispettare ancora oggi. Tutti in divisa bianca, atteggiamento composto e rispettoso, inchino ai reali in tribuna. Inoltre Wimbledon è l'unico dei 4 slam a disputarsi su erba. La bellezza del tennis risiede anche nel fatto che le superfici sono così diverse tra loro che a volte sembra di parlare quasi di sport diversi. L'erba è una delle superfici più complesse, veloce, rapidissima e anche piuttosto irregolare nel rimbalzo, elementi che la rendono decisamente più adatta a chi ama giocare al volo, a rete, accorciando gli scambi e riducendo al minimo i colpi di rimbalzo. In questo contesto, il look multicolore e spettinato di Henry Agassi sembra decisamente fuori luogo, così come il suo tennis che accumula botte tremende da fondo campo. Invece, proprio qui Henry stupisce tutti. Si presenta vestito di un bianco candido, convinto e determinato. Nei quarti di finale a sorpresa fa fuori Boris Becker, già vincitore di 3 titoli sull'erba londinese. In semifinale annienta John McEnroe, in finale Goran Ivanišević. I puristi gridano allo scandalo. 3 giocatori di serve and volley spazzati via da un brutale picchiatore. Lo stesso McEnroe, però, spiega il successo di Agassi. La rapidità e l'anticipo che aveva nella risposta sull'erba quell'anno risultavano letali. Mi ricordo che servivo e senza nemmeno rendermene conto la pallina era già tornata dalla mia parte. Certo, non ero più al top della mia carriera, non più rapido come una volta, ma la sua rapidità era impressionante. La stessa rapidità che lo porta ad annientare, in finale, Goran Ivanisevic. Sbaglia la volée di rovescio Ivanisevic, André Agassi vince il torneo di Wimbledon. Piange Nick Bollettieri, di gioia certo, ma forse anche perché, apparentemente senza motivo, il loro rapporto si interrompe lì. Dopo quel successo a Wimbledon, Agassi cerca di percorrere altre vie senza l'uomo che gli aveva fatto da padre e da allenatore in quegli anni. Nei due anni successivi, nonostante un intervento al polso, Andre riesce ad aggiudicarsi altri due tornei dello Slam, gli US Open nel 1994 e gli Australian Open nel 1995. A Melbourne, in finale, riesce finalmente a battere proprio Pete Sampras. Proprio in Australia, nel 1995, nonostante la sconfitta con Agassi in finale, Sampras diventa definitivamente uno dei tennisti più amati al mondo per una scena incredibile che si verifica durante un quarto di finale degli Australian Open contro Jim Courier. Poche ore prima del match, si scopre che il suo coach, Tim Gullickson, ha pochi giorni di vita. Pete a metà del match scoppia a piangere, ma resta in campo, con le lacrime che gli rigano il volto per tutto il match e i singhiozzi a ogni cambio di campo. La vittoria, con il cuore oltre l'ostacolo, alla fine, ha un sapore tutto diverso. Sampras di Slam ne vince 5. L'impresa più importante avviene a Wimbledon, nel 1993. Infatti batte proprio Agassi, campione uscente nei quarti di finale, e poi polverizza un altro americano, Jim Courier, in finale. Non è una semplice vittoria, ma l'inizio di un dominio assoluto. Dal 1993 al 2001, Pete vince 7 volte a Londra. Un regno incontrastato e incontrastabile, cui saprà porre fine nel 2002 un ragazzo svizzero di 20 anni, di nome Roger Federer. Insomma, i destini dei due atleti continuano a incrociarsi sui campi e nei tornei di tutto il mondo e la loro rivalità è il carburante di tutto il circuito. Qualcosa però in Agassi alla fine del 1995 si rompe. Probabilmente quell'infanzia imbrigliata dalle assurde regole paterne inizia a esigere un tributo in termini di stabilità ed equilibrio. Prima il controverso matrimonio con Brooke Shields, destinato a durare pochissimo e a far discutere. Poi la crisi di gioco, determinazione, voglia. Infine, il ritiro. È difficile spiegare cosa mi sia successo in quel periodo della mia vita. Un insieme di cose mi avevano fatto perdere di vista il senso dell'esistenza. Per anni avevo badato solo al tennis, all'immagine, alle cose esteriori. In quel momento si era rotto qualcosa. Avevo bisogno di recuperare un centro, un senso complessivo. Non è stato semplice. Dopo 1996 in colore, nel 97 Agassi sparisce dal circuito. Sampras continua a dominare. Da due anni chiude al primo posto nel ranking mondiale la sua stagione. Lo farà per altre 4. Ma senza il suo rivale, anche per Pete, le cose cambiano. Definirei quel 1997 l'anno più strano della mia carriera e per un motivo. Non c'era Andre Agassi. Senza di lui, non so, le mie vittorie avevano un sapore diverso. Posso dirlo, sì. Mi mancava. Toglieva gusto ai miei successi, soprattutto nei tornei americani sul cemento, dove la nostra rivalità era più forte. La risurrezione di Agassi passa attraverso un nome, Brad Gilbert. Brad Gilbert è stato un tennista di buon livello tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Ha giocato diverse volte anche con Andre Agassi. Decide però di ritirarsi nel 1994 e diventa un coach. Anche il suo destino è determinato dall'incrocio con Andre Agassi. Il recupero pieno e completo del grande tennista di Las Vegas sarà il suo capolavoro e lo spingerà a diventare uno dei più quotati e determinanti allenatori del circuito. Quando Gilbert avvicina Agassi, trova un campione smarrito, disorientato, sovrappeso. Ha appena lasciato Brooke Shields, dopo un matrimonio brevissimo. Gilbert lo motiva, lo convince che nessun torneo gli può sfuggire se recupera mentalità e fisico. Lo convince che Sampras, che domina ora incontrastato il tennis mondiale, può essere battuto. E lo ricostruisce pezzo per pezzo. La cosa che mi impressionò di Andre in allenamento era che tutti i suoi colpi erano puliti. Colpiva sempre la palla con il centro della racchetta, sempre, da qualsiasi posizione e in qualsiasi condizione. Era incredibile. Andava soltanto ricostruito nelle motivazioni e nel fisico. La figura del campione solitario che come Rocky Balboa si allena duramente, correndo per le strade a orari improbabili in qualsiasi giorno dell'anno, non esiste solo nei film. Andre Agassi, tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998, si allena sempre. Capodanno, Natale, corre, si rimette in forma e si ripresenta in campo da numero 150 del mondo, con il cranio rasato e un fisico due volte più massiccio. La sua rimonta è spettacolare. A fine anno avrà guadagnato 144 posizioni. Chiude al numero 6. Al primo posto naturalmente ancora Pete Sampras, ma la loro rivalità può riprendere. Nel 1999, infatti, per Andre arrivano la finale a Wimbledon, persa nettamente con Sampras, e il secondo titolo agli US Open. Soprattutto arriva il successo nel Roland Garros, il torneo dello slam che gli mancava. In finale Andre sconfigge Andrei Medvedev dopo una battaglia di 5 set e diventa il quinto giocatore della storia in grado di conquistare tutti i tornei dello slam. Anche in questo caso i destini dei due giocatori si intrecciano e si incrociano. Mentre Agassi completa il suo slam, Sampras non riuscirà mai a vincere al Roland Garros, che nonostante i 14 major vinti, un record che solo Roger Federer saprà superare, rimarrà il cruccio di tutta la sua carriera. Agassi arriverà a 8 slam, in una rivalità che sembra non conoscere soste, fino al 2002, quando qualcosa si rompe, stavolta in Sampras. Pete però non è tipo da colpi di testa. La voglia di giocare, di allenarsi, di stringere i denti, progressivamente lo abbandona. Nel corso dell'anno non vince nulla. Scivola al 14° posto nella classifica mondiale e sembra in declino. Agassi è sempre al vertice. Quando inizia l'ultimo slam dell'anno, gli US Open, Pete non viene nemmeno incluso tra i possibili favoriti. Invece, improvvisamente, la luce si riaccende. Sampras raggiunge la finale spinto dalla voglia di chiudere la carriera con un acuto importante. Sfortunatamente per Agassi, che raggiunge quella finale, Pete decide di rispolverare il gioco dei tempi migliori. Nella sera newyorkese dell'8 settembre 2002, gli US Open vanno per la quinta volta a The King of Swing, Pete Sampras, il re di Wimbledon. Il re, qualche tempo dopo, annuncia il ritiro. Sento che le motivazioni vengono meno. Preferisco chiudere qui. Non voglio vivere una fase di declino. Voglio dedicarmi alla mia famiglia, alla mia vita. Agassi continua. Grazie al suo talento e al suo fisico, rimane al top fino al 2005. Il matrimonio con la campionessa del tennis femminile, Steffi Graf, gli porta equilibrio e serenità. Purtroppo per lui, da Basilea, arriva un marziano. Roger Federer si siede sul trono del tennis mondiale e agli altri lascia solo le briciole. Memorabile la finale a New York nel 2005 tra Agassi e lo svizzero. L'ennesima per Andre, che lotta come un leone, ma si deve sottomettere. Agassi si ritira nel 2006, al termine del suo ultimo US Open. Il pubblico di New York, dopo la sconfitta con Benjamin Becker, gli tributa un'interminabile standing ovation. La rivalità tra Sampras e Agassi non si ferma, però, con il loro ritiro. Il post-carriera riserva ancora molte sorprese per entrambi. Tra poco, a destini incrociati. Andre Agassi e Pete Sampras sono stati i tennisti più importanti degli anni 90. La loro rivalità ha infiammato tifosi e appassionati per più di 10 anni. Sampras si ritira nel 2002 dopo il 14esimo slam portato a casa. Agassi si ritira nel 2006. Lasciano il tennis due veri recordman. Andre Agassi è ad oggi l'unico giocatore ad aver vinto tutti e quattro i tornei dello slam, la Coppa Davis, il Masters e l'Oro Olimpico. E inoltre è stato il più anziano numero uno della storia, 33 anni. Pete Sampras ha detenuto diversi record, la maggior parte dei quali oggi polverizzati da Roger Federer. L'unico impressionante ancora in piedi è quello del numero di settimane al primo posto della classifica mondiale, 286, contro le 283 di Federer. Un record che probabilmente cadrà presto, ma che farà ancora di Sampras il più longevo numero uno della storia del tennis. Dopo il ritiro, Sampras si dedica alla famiglia e a una vita tranquilla, almeno per qualche anno. Agassi, invece, dopo un periodo di quasi totale assenza dal circo mediatico del tennis, sconvolge il mondo con un'autobiografia che solleva un vero e proprio polverone in tutto il mondo dello sport. La mia autobiografia nasce da un'urgenza puramente personale. Ho mentito per anni a tutti, forse anche a me stesso. Era arrivato il momento di mettere tutto sul piatto, di uscire allo scoperto. Ora mi sento meglio. Su cosa ha mentito Andre Agassi? La cosa più grave riguarda sicuramente il doping e le droghe. Nel libro, Andre confessa di essere stato dipendente dalle metanfetamine e di avere mentito per anni all'ATP con varie differenti scuse per sfuggire ai controlli antidoping. Andre ha spiegato la dipendenza dalle droghe dicendo che fino all'incontro con Steffi Graf, la sua vita personale, per via dell'infanzia dura e del matrimonio problematico con Brooke Shields, era un inferno. Nella sua autobiografia, Andre Agassi fa un'altra rivelazione shock. La chioma fluente che l'aveva reso famoso negli anni 80 e nei primi anni 90 era in realtà un parrucchino. Mi ricordo che quando nel 1990 ho affrontato André Gomes nella finale del Roland Garros, il mio parrucchino il giorno prima della finale si era staccato. Ero terrorizzato. Me l'avevano risistemato in tutta fretta, ma la mia paura era che potesse volar via durante la finale. Mi chiedevo, cosa farò se dovesse succedere una cosa simile? Mi chino con nonchalance, lo raccolgo e me lo rimetto? E con un sorriso mi giro verso il pubblico, chiedo scusa e mi rimetto a giocare? Ero più terrorizzato da questo problema che dalla mia prima finale, che infatti ho perso abbastanza nettamente. I tifosi sono scioccati. Il mondo del tennis si dichiara deluso, soprattutto nei suoi uomini di punta, Federer e Nadal. A difenderlo, incredibilmente, solo Pete Sampras, che ricorda ai media che essere un campione sotto i riflettori 24 ore su 24 non è mai facile. E anzi sottolinea come l'onestà di Andre sia in realtà da ammirare. La rivalità tra i due si riaccende in occasione di alcune esibizioni. Sampras sente di nuovo la voglia di agonismo e si ripresenta in campo prima per tre incontri a scopo benefico col re del tennis Roger Federer. Poi, nel cosiddetto Tour of Champions, un circuito che ripropone in campo vecchie glorie del tennis che ancora sono in forma e in grado di divertire, ritrova Andre Agassi. Per me è un piacere ritrovare Andre anche in questi incontri di esibizione. Ci riporta in qualche modo alla fantastica rivalità di un tempo. Ecco, è come tornare indietro nel tempo. Che sia un piacere per entrambi, però, non è così scontato. Nella più recente di queste esibizioni, avvenuta a Key Biscayne per iniziativa di Roger Federer per raccogliere soldi per le vittime del terremoto di Haiti, tra i due capita un episodio quantomeno curioso. Si sta giocando un doppio, Federer e Sampras contro Agassi e Nadal. Tutti e quattro sono dotati di microfono ad archetto, giocano e scherzano. A un certo punto, però, Andre alza i toni. Sei sempre stato un taccagno. Mi ricordo quando hai dato solo $1 di mancia a quel parcheggiatore. Alla conclusione di questo battibecco, chiaramente fuori luogo, in una serata il cui scopo principale è quello di raccogliere denaro per beneficenza, Sampras spara un servizio a 200 all'ora contro Agassi, che lo evita per miracolo. La tensione si taglia con il coltello. Roger, che fa da padrone di casa, stempera i toni e l'episodio rientra. I due avranno modo di chiarire a fine match. È stata solo una piccola incomprensione. Mi spiace per l'accaduto, ma la mia stima per Andre rimane inalterata. Era tutto uno scherzo. L'importante era divertirsi e raccogliere fondi per Haiti. Con Pete è tutto a posto. Insomma, una rivalità che ha segnato il tennis. Cordiale finché si vuole, ma certo profonda e intensa. Non priva di quella tensione e quella carica che l'hanno tenuta viva negli anni. Protagonisti, due campioni che hanno vinto tanto, tutto, ma che sicuramente non sarebbero gli stessi se non avessero avuto davanti un rivale così importante, forte e ingombrante. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.